X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io voglio riconoscere una piena sconfitta. Una sconfitta innanzitutto mia e una sconfitta di un intero gruppo dirigente. In una regione come la nostra, che non è una regione saldamente di sinistra, la sinistra si presenta divisa e la destra si presenta unita, non c'è dubbio che si offre un'opportunità. Noi abbiamo avuto un'aggressione da parte di una componente della sinistra che non ha riconosciuto il risultato delle primarie, che ha deciso di andarsene e ha consegnato la regione Liguria nelle mani del centrodestra. Hanno fatto un'operazione che alla fine ha dato il seguente esito. Hanno avuto il 9,4%, ottenuto un consigliere regionale e in cambio di tutto questo hanno consegnato la regione a Toti. E io credo che questa responsabilità, così come avvenne nel caso di Prodi, se la devono assumere queste figure che non hanno saputo stare unite dentro al Partito Democratico. Si è voluto utilizzare l'operazione della regione Liguria per lanciare una sfida di carattere nazionale e quella sfida l'abbiamo persa entrambi. Io e Pastorino insieme avremmo vinto questa regione. Allora, onorevole Pippo Civati, buongiorno. Questa era la paita l'altro giorno di martedì di Giovanni Floris. È dura, precisa, obiettivo raggiunto, insomma, quello con Pastorino? Battere il candidato di Renzi? È dura e imprecisa, perché purtroppo dice delle cose che non sono vere. Cioè, che cosa? Ma prima di tutto che nessuno si è diviso da lei, ma lei ha fatto delle primarie scandalose. Però le ha vinte, però le ha vinte. I voti della destra, i brogli. Non dimostrati, no. Come non dimostrati? Certo che dimostrati, ma come no? Minoli, ma sono stati dimostrati dalla commissione di garanzia. Sì. Sono stati annullati 14 seggi. Io le ricordo che restava a Napoli, ha vinto lo stesso. Furono, sì, ho capito, però se allora deve parlare lei, no, io le faccio domande, però. Allora le dico che a Napoli qualche anno fa furono annullate le primarie per 3 seggi, a 14 seggi denunciati dalla commissione di garanzia, la partecipazione di esponenti di destra che poi hanno fatto i capilista della lista di Toti, le stesse persone che hanno sostenuto la paita alle primarie hanno sostenuto Toti alle elezioni. In un quadro politico completamente, come dire, rovinato nei rapporti interni al Partito Democratico. Cioè, vabbè, lei è soddisfatto del risultato di Pastorino? Sono soddisfatto, sommato a quello della paita non avrebbe superato Toti, è un'altra imprecisione della paita. Senta, molte persone che hanno votato Pastorino non sarebbero andate a votare e non avrebbero votato paita, quindi è una discussione questa totalmente surreale. Bene, il vostro obiettivo, andiamo avanti allora, il vostro obiettivo qual era? Battere il candidato di Renzi? Il nostro obiettivo era dimostrare che c'è spazio, c'è la possibilità per un'alternativa, per fare qualcosa di diverso da una logica che è quella del Partito della Nazione, che paita incarnava perfettamente. Senta, però la sinistra, voglio dire, malgrado tutto, diciamo, la sinistra governava la Liguria, ha detto adesso l'avete persa. Un pochino di masochismo in questa divisione ci può stare. Sì, però la parte più grossa del masochismo è quella di Renzi, che non si cura della sinistra, che ha sempre attaccato i sindacati, gli intellettuali, il mondo della scuola e chi più ne ha più ne metta, ha sempre banalizzato le nostre preoccupazioni, le nostre denunce, le questioni che ponevamo e si ritrova senza essere coperto a sinistra. Questa è la verità. Però stava succedendo lei anche altrove, quindi sa, questa accusa di essere Prodi, Bertinotti, Renzi non è Prodi, quindi non c'è nessun problema a fare altre cose diverse da quelle che fa Renzi. Sì, però al di là dei sogni e delle parole, lei sa benissimo, meglio di me, che in Europa quando è nato un partito a sinistra dei riformisti si è sempre perso. La Germania ne è un esempio clamoroso con la Fontaine, da allora non sì, hanno però più governato. Posso dire una cosa, il Partito Democratico è un partito di centro, è un partito che si allea con la destra strutturalmente, che sceglie di essere sostenuto dalla destra e quindi è una cosa un po' diversa, è più, come dire, un grande contenitore centrista alla tedesca, va benissimo, cioè, a sinistra della CDU c'è un partito politico, cioè bisogna vedere qual è il punto di vista. Certo. Se lei pensa che il 10% sia residuale o marginale, secondo me fa un errore di valutazione. No, io facevo una valutazione diversa, dicevo in Germania quando la Fontaine si è scisso dai socialdemocratici in realtà poi non hanno mai più vinto, sembra che l'obiettivo sia perdere sempre poi alla fine. Beh, il problema è quello di costruire secondo me un centrodestra e un centrosinistra. Secondo me il PD non rappresenta più la complessità e la larghezza, diciamo così, del centrosinistra, ha scelto di fare un'altra cosa, di governare strutturalmente fino al 2018 con forze di destra che contano molto più di quelle di sinistra, questo è abbastanza come dire, evidente, di fare delle scelte anche a livello locale molto sbilanciate. Le ripeto, quando ci sono persone che si schierano alle primarie con noi e poi alle elezioni con gli altri, forse c'è un problema che va oltre Aita, Civati, forse lo stesso Renzi, gli è scappata la mano. Senta, quindi, lei vorrebbe adesso che il governo Renzi andasse a casa? No, io non voglio, io semplicemente no, faccio una domanda. Tra l'altro c'è anche un altro particolare nella cosa che diceva Paita, che qualcuno è uscito dal PD perché non si riconosce più in quel certo, partito. Certo, questo naturalmente ne abbiamo già parlato. Secondo Paita dovrebbe stare a casa, non dovrebbe neanche andare alle elezioni, se no fa perdere. No, ma le ho fatto un'altra domanda. Lei vorrebbe che il governo Renzi andasse a casa? Io penso che gli italiani debbano scegliere al più presto un governo con un programma che votino loro. Cioè pensa che bisogna andare alle elezioni a questo punto? Io penso che finito il percorso delle riforme, che pure non condivido ma che è legittimo che questo Parlamento porti a termine, si possa andare a votare. Ecco, ma per fare questo percorso delle riforme al Senato, al Senato è più difficile adesso, no? Ci vorrà... Ci vorrà per un'opera di salvataggio del governo da parte di, non so, di Verdini o di chi, un nuovo Nazareno bis, non lo so. Gli unici senatori usciti, per rimanere a questo schema sì, destra-sinistra, gli unici senatori usciti dalla maggioranza sono di destra, diciamo, perché io e Pastorino siamo usciti alla Camera, ma non c'è nessuno che sia uscito dal PD al Senato, quindi i numeri ballano da sempre al Senato, mancano due senatori in più perché Mauro ha deciso di fare questo strappo. Però guardi, cosa prevede Verdini, lei cosa prevede? Il di Verdini è già nelle cose. Sulla riforma della scuola Forza Italia ha votato un sacco di articoli che non votava la minoranza del PD o che non votavo io. No, quindi, ma quindi lei cosa prevede? Prevedo che vada avanti così, guardi, sì, che Renzi non possa permettersi di cambiare linea, anche perché si è preso troppi impegni in quella direzione. Quindi sì, io penso, però, se lei me lo chiede, certo, la mia aspettativa è che prima o poi si voti con un programma di Renzi, il programma di Salvini, il programma degli altri, sì, magari anche il programma nostro. Ecco, il vostro programma, lei ha fondato un nuovo gruppo, lei ha fondato un nuovo gruppo, è possibile. Ecco, cosa spera che sia possibile? Ma io spero che sia possibile restituire innanzitutto un po' di sovranità ai cittadini, quindi la prima questione è proprio quella di avere una politica diversa. L'altra cosa che non ha funzionato in queste elezioni è che era tutto un messaggio televisivo, un politicismo dietro l'altro, e infatti hanno vinto, come dire, movimenti e forze molto populiste. No, questo è l'unico dato delle elezioni. Poi noi ci batteremo, lo spiegheremo con calma nelle prossime certo, settimane, per una politica economica molto più egualitaria, che superi le disuguaglianze, che abbia strumenti per far crescere il paese. Perché senta, lei è d'accordo con Landini che oggi dice Renzi ha fallito, tocca a noi già subito? Ma non lo so, Landini non ho capito se vuole fare la coalizione sociale, quindi una cosa sindacale, o se vuole fare politica, magari sabato e domenica ce lo dice. Comunque sia, non è che abbia fallito, ha proseguito il lavoro che era iniziato con Letta, con qualche colpo di, diciamo, di teatro come gli 80 euro, però dal punto di vista delle scelte politiche di fondo, con una grande continuità con questo schema centrista che le dicevo. Senta, Vendola dice facciamo subito tutti insieme una cosa, ma cosa? Ma infatti secondo me il punto è capire quali sono, qual è il programma di governo intorno al quale costruire quella cosa. Lo dico da tempo, quando ci sarà un progetto politico che ha quella vocazione, cioè di governare il paese in modo diverso, ci sarà anche la cosa. Prima ci sono tante sigle, tante personalità, però non, cioè, sembra che ci siano tante personalità che abbiano soprattutto paura di uscire dalla politica. Questa è una sensazione, guardi, che c'è. Guardi, no, una sensazione, dico molto... Anzi, le faccio sentire una cosa, scusi un attimo, e poi senta cosa diceva un cavallo di razza della Democrazia Cristiana, come Fanfani, di chi pensava di vivere solo di politica. Senta. Senta, ma in politica è indispensabile, secondo lei, avere un secondo lavoro per essere liberi, cioè avere un primo lavoro, anzi? Io ritengo, la mia esperienza dice che arrivare in politica dopo avere una propria posizione professionale è un grande vantaggio, è una garanzia di libertà. Ecco, ma chi non ce l'ha, allora è meglio che non faccia politica. Io consiglio a tutti, specie ai giovani che ogni tanto vengono, dice sai, vorrei fare politica, prima studio o prima impara un lavoro e conservati, creati e conservati una tua personalità e possibilità di vivere, in modo da non aver bisogno delle briciole della politica. Ha ragione Fanfani? Civati? Ma guardi, io non, sì, ha ragione in termini generali e non ho nessun problema, le segnalo soltanto che chi molla il partito di governo e scende dal carro. Ma io non glielo chiedo mica pensando che lei, come lo sta dicendo a me. No, ma io glielo sto dicendo in generale, perché lei parlavamo delle sigle, che si, tanti personaggi, tante sigle. Questa linea, lei se non facesse politica cosa farebbe? Ma guardi, io insegnavo, facevo, lavoravo in un'agenzia di comunicazione, mi divertirei, ho anche dei progetti imprenditoriali, diciamo, nella vita. Non si deve offendere però se le faccio una domanda. No, ma non mi stavo offendendo, stavo pensando a come è iniziata questa trasmissione con chi dice siete separati per il calcolo. Per la verità ci siamo separati per sincerità, perché il calcolo sarebbe stato quello di fare l'assessore della baita per qualcuno e il ministro del governo Renzi per qualcun altro. Bene, ma io le ho chiesto se quello che diceva Fanfani è una, come dire, una linea da avere nel fare politica per avere più libertà, solo questo. Assolutamente sì, ma comunque la politica poi si può anche smettere. Io ho detto, se questa cosa che sto lanciando funziona e serve per aggregare e rilanciare la politica, bene, se no smetto volentieri. Ecco, ma su che base questa cosa è possibile? Su che base centrale, diciamo, pensa di aggregare pezzi di società? Secondo me i temi sono sempre quelli: la rappresentanza, l'uguaglianza, politiche più trasparenti, vediamo quello che è successo a Roma anche questa mattina, una maggiore linearità nelle promesse, nelle proposte per quello che si fa, perché anche questo è un problema della politica italiana, alcune soluzioni che non sono state mai provate, insomma. Io penso che ci sia bisogno di molta innovazione, nel renzismo non la vedo, vedo molto movimento ma vedo poca innovazione in campo sociale, economico, e potrei andare avanti tutto il giorno. Senta, quindi... c'è un ex elettore del PD che adesso ha votato 5 Stelle, un elettore di La Spezia che invece le dà ragione e dice ci va di ragione perché Pastorino non ha tolto voti alla paita. Vede? Ma in verità, guardi, abbiamo visto i flussi, una parte di quei voti vengono dal PD, da persone come noi che hanno mollato, diciamo così, ma un'altra parte vengono dall'astensione, dagli stessi 5 Stelle, da una sinistra più radicale che non avrebbe votato il Partito Democratico, proprio in ragione del Jobs Act, delle riforme molto enfatizzate ma poco concrete, tutte le cose che ci siamo detti. La cosa che da superare, secondo me, è l'idea che non ci possa mai essere niente al di fuori della Chiesa. Questa è una cosa che più che al PD fa pensare al PC. Però il segretario è Renzi, per cui capisce che la contraddizione sì, però per me resta valida l'osservazione che le ho fatto sulla Germania, perché il dividersi ha portato nella storia, se la storia segna qualcosa, i socialdemocratici non hanno mai più governato. Posso fare un altro esempio? Certo. La Francia al doppio turno ce l'ha di collegio, diciamo, ce l'ha sul Presidente della Repubblica, noi abbiamo mischiato le cose facendo un pasticcio, però col doppio turno il voto utile non esiste, al primo turno si vota chi rappresenta meglio le proprie idee e poi il secondo turno si fanno le valutazioni del caso. Senta, per cui come vede anche questo è superabile, è una polemica tutto che si tiene in Liguria. Senta, le faccio ancora una domanda, nello scontro tra Rosibindi e De Luca Cantone, il commissario anticorruzione, ha dato torto alla Bindi, ha fatto bene o male? Secondo me ha fatto male, si è un po' scusato, se ho capito bene, per l'entrata nel lagone politico. Mi pare che lì ci fossero già troppi ormoni in campo, soprattutto dopo le elezioni vinte. De Luca le ha vinte, secondo me un po' di signorilità sarebbe stata necessaria, i toni sono completamente sbagliati. Insomma, non si può querelare Rosibindi, si può essere in contrapposizione feroce, però insomma ricordiamoci appunto che quegli esponenti sono dello stesso partito, a proposito di Partito Unito e di rispetto delle posizioni. Senta. Dopodiché il problema di De Luca è quello se potrà fare il presidente, non è quello della Bindi. Certo, naturalmente. Senta, per chiudere c'è Mario Secchi che le vuol fare una domanda. Buongiorno Civatti. Buongiorno. Lombardia, Liguria, Veneto, tre regioni che fanno 500 miliardi di PIL e il PD non le governa. Perché? Ma secondo me per ragioni storiche, anche perché abbiamo forse valutato con qualche eccesso il risultato dello scorso anno. Si ricorderà che in Veneto ci fu un'affermazione pazzesca del Partito 37%, Democratico. 37%, infatti, ci fu, come dire, l'idea che avessimo sfondato al nord, che sarebbe tutto andato a posto velocemente. Purtroppo un'altra cosa di cui occuparsi è appunto la costruzione di una cultura politica di un gruppo dirigente che è stato sconfitto oggettivamente in queste regionali. A me dispiace dirlo, perché non sono appunto come De Luca quello che si prende fa le ripicche, le vendette o le querele, però abbiamo valutato male la nostra proposta, la proposta, cioè, e anche la formula forse, perché poi in Veneto abbiamo scoperto, a proposito di voti spariti, che una figura come quella di Tosi assorbiva anche una parte di quel risultato dello scorso anno. Certo. Bene, grazie Civati, la prossima volta 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Che cos'è la pubblicità? È l'anima del commercio! E che vuol dire? Non lo so! Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista. Paulista, amore mio! Caffè, caffè, caffè, Paulista. Ragazzi, tra poco tutti qua, che c'è la pubblicità! Parliamo di un nuovo modo di fare pubblicità, molto suggestivo, molto accattivante. Attenzione però, perché sempre di pubblicità si tratta. Come guerriglieri agiscono di notte, nelle città, pochi minuti, si srotola il filo spinato, il bucato estremo, esteso. Una volta si chiamavano trovate pubblicitarie, oggi guerriglia marketing. Mia moglie e un altro uomo, avvinghiati dentro una macchina, come amanti in incognito. Così la frase della lettera d'amore parsa sul Corriere della Sera. Ne stanno parlando tutti, è già uscito sulle agenzie di stampa, sta uscendo nei siti dei maggiori giornali. Trasmette come un virus il suo messaggio e solo alla fine si svela e si associa all'evento. Mirko Pallera, 41 anni, di Parma, ha fondato nel 2004 insieme a Alex Giordano Ninja Marketing, una delle prime agenzie italiane di marketing non convenzionale, che è diventato anche una scuola che ha formato circa 15.000 professionisti. Dottor Pallera, com'è nato Ninja Marketing? Ninja Marketing nasce dalla frustrazione di due giovani professionisti che non trovavano risposte nelle agenzie per cui lavoravano. Purtroppo nessuno è profeta in patria, soprattutto quando si è giovani, se si ha qualcosa da dire. Quindi è un progetto che è nato da una frustrazione che diventa un successo. Ma cos'è esattamente il marketing non convenzionale? Il marketing non convenzionale oggi è una definizione che racchiude tutta una serie di tecniche che utilizzano mezzi non convenzionali come gli eventi, ma anche il marketing digitale per arrivare a comunicare con il pubblico. Ed è cambiato in 10 anni? È cambiato molto, perché oggi è anche una definizione forse un po' superata. Perché Lei oggi come lo definirebbe? Allora, oggi il marketing non convenzionale è tutto il marketing, nel senso che un buon marketing non può essere che un marketing creativo che sorprende l'audience, che sia inaspettato, che crei relazione con le persone. Quindi le grandi aziende oramai è normale che puntino su quello, questo tipo, nuove forme di marketing. Beh, da quando hanno avuto successo i social media, la tecnologia ha reso possibile, ha reso evidente la relazione. Cioè la tecnologia è un linguaggio e quindi impone il suo linguaggio e offre delle opportunità diverse. Le faccio un esempio. Un paio di mesi fa sul Corriere della Sera è comparsa tutta pagina la lettera di un marito tradito che rimandava una pagina Facebook. Se la ricorda? Sì. Ecco. Poi è uscito fuori che si trattava della pubblicità di un nuovo programma televisivo, guerriglia marketing, insomma. Eh sì, assolutamente, è una campagna di guerriglia marketing che crea una notizia, quindi è una falsa notizia sostanzialmente che serve a generare rumore mediatico. Ed è una strada, ed è una strada forte ma innovativa, insomma. Beh, oggi non è più innovativa come lo era rispetto a 10 anni fa, però ancora funziona, quando è fatta bene funziona. A sorpresa. E in che misura l'arrivo dei social ha influito su questa evoluzione? Perché ha reso facile, molto facile, creare una relazione con le persone, quindi un dialogo, no? La pubblicità tradizionale è un monologo, io parlo, qualcuno ascolta, mentre una campagna non convenzionale presuppone un ingaggio, una relazione tra le persone, fare qualcosa, una foto, un video, piuttosto che partecipare in qualche modo alla co-creazione della campagna. Quindi il segreto per conquistare il consumatore è renderlo partecipe oggi? Assolutamente sì. Le persone hanno molta voglia di partecipare. Senta, quindi la posizione del consumatore passa da essere da spettatore a attore, insomma, per dirla semplice. Sì, o co-creatore, diciamo. Ma che cos'è una tribù digitale esattamente? Beh, noi facciamo parte tutti di tribù digitale, semplicemente i nostri amici di Facebook sono la nostra tribù di amici, ma ce ne sono poi altre, che ne so, i gruppi di mamme antivaccinazioni, gli amanti del rap. Quindi dei segmenti di popolazione sempre più definite e profilate. Assolutamente sì, che si ritrovano in luoghi ben definiti grazie agli strumenti digitali che possono quindi mettere in contatto persone molto lontane. Senta, ma il marketing non convenzionale, diciamo, oggi è diventato quello convenzionale, non ha più una sua definizione, come dire, alternativa, è così? Beh, noi abbiamo creato questa definizione per dare un'idea di discontinuità col passato, però oggi possiamo dire che si è capito che il marketing che funziona è quello non convenzionale, è quello che ha una marcia in più. Senta, lei ha scritto, create, progettare idee contagiose, rendere il mondo migliore, insomma, un mondo migliore addirittura. Allora, beh, anche nel mondo delle aziende c'è un moto, come dire, di attenzione verso il mondo che sta cambiando, e quindi anche il marketing si sta interrogando se può essere non solo il braccio armato del capitalismo, ma anche, come dire, portatore di istanze di innovazione sociale. Più social, momento... insomma, più social marketing, eh? Sì, più social marketing e più orientato al cambiamento, e quindi... le marche che diventano attori nella società e propongono delle innovazioni che impattano positivamente sulla società. Ma il marketing traspersonale cosa si intende? Questo nuovo paradigma che abbiamo presentato di recente, che presuppone che l'interiorità umana, l'ego delle persone sia espanso, ovvero si stia espandendo abbracciando non solo poi la propria tribù, la propria famiglia, ma anche la comunità più in generale, fino ad abbracciare il pianeta e tutto il cosmo. E quindi che i bisogni individuali non siano più semplicemente quelli della persona, ma siano collettivi. Ecco, questo ribalta completamente il punto di vista del marketing. Ma con un passaggio dall'io al noi, oppure io sempre di più? Passaggio da io al noi, quindi il noi è un io aumentato, è un qualcosa che comunque fa bene anche a me, non è più un dovere fare del bene, ma è un bisogno. E questo è il segreto della pubblicità di oggi? Io credo di sì, quella di oggi che va verso il futuro, però, perché bisogna ancora arrivarci. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Se fossi tu al posto mio, ad osservarti appena ti alzi e ti muovi e con le mani ti accarezzi i capelli. Se fossi tu, chissà se riusciresti ad indossare per un'ora i miei occhi. E allora Giovanni, c'era l'uomo che sbagliava tutti i treni oggi in metropolitana, un po' perché si portava nei pensieri le nuvole e con Yagi Yukichi si ripeteva: in un giorno senza nuvole il cielo è solo. E un po' perché faceva un po' di tutto, leggeva, rimuginava, parlava al telefono e improvvisamente passava da un binario all'altro, da una stazione all'altra, facendo un groviglio del suo viaggiare, tutto un lungo dimorare nei sotterranei della metropolitana al prezzo di un solo biglietto. A un certo punto, un'ispettrice dell'azienda trasporti ha avuto l'idea definitiva: dargli un filo da seguire. Era lo spago di una robusta spagnoletta che seguisse il suo andirivieni tra le linee. Ebbene, lui si procurò da sé, il viaggiatore, una ragnatela, e l'ispettrice si svelò a lui dal profondo del cuore, lo catturò e poté finalmente dirgli: era una vita che ti stavo aspettando. Per non cadere dentro i soliti errori che ogni volta non riusciamo a evitare. Quanti modi di incontrarsi, eh? Ma io ho preso la metropolitana ieri, ho fatto anche un viaggio lungo, ma Cinecittà, Cinecittà, andate e ritorno. È andata bene però. Sì, no, è andata bene, però io non ho fatto tutti, non ho le visioni. Vabbè, i poeti sono diversi. Ma è strano. Bolla! Facciamo un giretto per il mondo, dai. Spirit in the sky, no? È per quello che l'abbiamo messa. E, insomma, Draghi ieri ha confermato la politica monetaria della BCE, l'avevamo detto, era facile immaginarlo, no? E quindi si va avanti con i 60 miliardi di euro mensili, si fanno acquisti di tutti i tipi, ovviamente ne beneficia molto lo Stato italiano di questo. Domani scade la rata, sai che hanno una rata in scadenza i greci, no? 300 milioni di prestito. Quindi non hanno i soldi per rimborsare, però avete visto, i mercati sono molto fiduciosi sul fatto che si raggiunga l'accordo. Noi aspettiamo, anche perché, come sanno i nostri ascoltatori, noi lo ricordiamo sempre, ovviamente noi siamo esposti con la Grecia per una quarantina di miliardi. Non eravamo al vertice di Berlino, ma d'altronde pare fossimo impegnati molto. Non c'era neanche la Spagna, dai. Andiamo sì, avanti. Però noi siamo molto più grandi della Spagna, e vabbè, però c'era un impegno, c'era una partita di PlayStation. L'OCSE ha abbassato le previsioni di crescita globale, da 3,7 si passa a 3,1, voi direte sono pochi decimali, anzi a Palazzo Chigi direbbero così, ma che differenza fa? E invece fa differenza, perché significa che Stati Uniti e Cina sono in rallentamento, i primi al 2%, questo è un dato brutto, perché erano andati sopra il 3%, e i secondi crescono al 6,8%, roba che noi ce la sogniamo ovviamente, certo. Però erano dati sopra il 7. Cosa significa? Che sì, noi va bene, perché dopo 6 anni di stagnazione, recessione, cresciamo di qualcosa. Vediamo quanto sarà alla fine. 0,7, tra 6 mesi lo sappiamo. 0,7, 0,9, 0,5. Vediamo. Migliora il dato sugli occupati. Questa è la cosa più rilevante, secondo me. Quindi su questo bisogna insistere. Anche se sembrano prevalentemente over 50. Sì, c'è un tema, lo sai Giovanni, lo sanno tutti, cioè di quelli che hanno 50 e che restano senza lavoro a piedi, e sì, nessuno li vuole, perché è passata ormai la cosa che sei da rottamare. Invece ci sono situazioni gravissime, certo. Secondo me è un settore della società italiana che va aiutato in qualche maniera a trovare di nuovo lavoro, a riqualificarsi, a avere più di una speranza. Il Fondo Monetario dice che siamo un paese a rischio. Sì, sempre. Continuiamo ad esserlo. È interessante, è stato fatto uno studio da poco, una è stato pubblicato l'altro ieri. Puntuale. Sì, perché noi non abbiamo sostanzialmente spazio fiscale, cioè non c'è manovra, perché con 2 trilioni di debito è come una mongolfiera che ha un sacco di zavorra, ragazzi. Noi finché non risolviamo questo problema, mongolfiera non vola. Non vola. Vi ho annoiato con tutti questi numeri? Spero di no. Pietrangelo, non guardarmi così. Adesso ci abbiamo Salamino, vedrai che ci riprendiamo. Si riaprono i giochi in politica. Il rottamatore è sempre più suonato. La maggioranza in Senato perde senatori. I popolari di qualche cosa, non ricordo bene la sigla, tolgono l'appoggio a Matteo Renzi. Il margine ormai è di soli 9 voti. E in politica si riaprono i giochi perché, insomma, i duri scendono in campo. Altro che Matteo Salvini, altro che Silvio Berlusconi, altro che Alfano. E per ricordare, oggi ci abbiamo gli applausi? Allora vi dico, ti dico quando mettere gli applausi. Altro che Alfano, che per dirla con Fabrizio D'Esposito non solo non ha il quid, ma non ha manco il quorum. Applausi. Ecco, forte Fabrizio. Bravo, Fabrizio. Grande Fabrizio. L'asso degli assi per i moderati. E per la stragrande maggioranza degli italiani che non sono di sinistra è solo uno. Lo ricordate, riconoscetelo, ascoltatelo, ascoltatelo. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio? Ma dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Gennaio, non mi ricordo quale gennaio fosse. Comunque, siamo a giugno. Comunque, siamo a giugno del 2015. Sì. Ma è gennaio quello che verrà. Allora, la novità politica dunque sarà questa: sabato a Milano si riunisce la direzione di Italia Unica. E la novità sarà definitiva. La candidatura, lo avete riconosciuto, di Corrado Passera, sindaco di Milano. Davvero? E quindi altro che Berlusconi, altro che Salvini, c'ha pure l'inno. Ascoltate. Ecco. Accompagnato da questo inno, Passera, che ha le idee chiare, ha già detto niente alleanze col Carroccio. Con Salvini, col vertice di questa Lega, la vedo veramente difficile. Insomma, il leader di Italia Unica è proprio unico. Unico. Unico e solo. La mia solitudine sei tu. Lo se può guardare la regia. È troppo bella lì. Cioè, ragazzi, c'è un concentrato di bellezza. Tardelli, fiori. Sì, ci sono quei due ragazzi là, ma insomma, sfocatissimi. Sì, sì, non li vediamo proprio. Sara Tardelli. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Giorgio Moroder, qui è celebrato dai Daft Punk ed è uno dei padri fondatori della musica elettronica, è famoso in tutto il mondo ed è stato persino nominato commendatore dal presidente Ciampi nel 2005. In un'intervista di questa mattina dice: non c'è un nuovo sound al momento, non c'è un sintetizzatore nuovo. E ho pensato, ma è possibile che siamo fermi, come in stagnazione, nessuna idea neanche nella musica elettronica? Beh, se siete a caccia di novità, questo weekend io vado all'inferno. Sì, vado a Prato, al festival di musica elettronica dedicato all'inferno e al paradiso dantesco. Un modo per festeggiare il padre della lingua italiana e ripercorrere la storia, appunto, della musica elettronica. Larga Sara, brava. Oggi c'è tutta una, c'è tutto mamma mia, un fil rouge di musica elettronica. Hai capito? Sta contaminando tutti, Pietrangelo. Sì, sì. La fiori, dov'è la fiori? Andiamo sul canzoniere. Ecco. Wow. Come questa primavera d'amore assomiglia all'incerta gloria di un giorno d'aprile che ora mostra tutta la bellezza del sole e ora una nube completamente cancella. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Dagli un aiutino, dai. Un aiutino, per il canzone. Sì, per indovinare, non hanno ancora indovinato. Allora, Zaia e Tosi. Più facile di così. È facilissimo. Bolla! Into the distance, ribbon of black. Siccome Sara citava la musica elettronica, questi sono, no? Certo. Maestri di quel genere. Parliamo dei Pink Floyd, questo è Learning to Fly. Senti un po'. E di volo parleremo, perché parliamo di Alitalia. Oggi è un giorno importante perché la compagnia italiana, anche se l'azionista oggi è degli Emirati, presenta il suo nuovo marchio. Insomma, è una cosa notevole secondo me, perché alla fine cominciano a vedersi i frutti del lavoro del nuovo azionista. Il primo ad essere vestito è un Airbus 330, seguiranno altri 119 aerei, all'Italia una flotta di 120 aerei. Secondo me, insomma, sono sulla strada giusta. Hanno annunciato stamattina, mi pare, l'accordo per 310 assunzioni a tempo indeterminato. Le cose cominciano a funzionare, Giovanni. Non è importante chi detiene il capitale, è come fa il suo mestiere, come lo fa funzionare. Esatto. È Matteo da Treviso, ha indovinato? Matteo, buongiorno. Dica. Due gentiluomini di Verona di Shakespeare. Giusto! Bravissimo! L'aiutino era troppo forte. L'aiuto è stato essenziale. È stato essenziale. Lei che fa di bello a Treviso? Lavoro nei campi. Sono un vitico. Fantastico. Sì. Ci sente mentre lavora nei campi? Sì. Intanto che sono qua nei vigneti di Prosecco, intanto mi do coraggio ascoltando le grandi basi musicali di Mario Secchi. Grazie. Buon lavoro. Salamino. I Contura Sicilia con l'autonomia. Rimozione di un ordigno bellico. Allora, l'aeroporto di Catania è chiuso oggi, pare riapra alle 13 per motivi di sicurezza. Ci sarà da disinnescare e rimuovere una bomba di 250 libbre che è un regalo degli invasori inglesi, che è stato rinvenuto in contrada Junghetto. Ora, per non farsi mancare nulla, sarà interrotto anche il traffico ferroviario della ritrovata linea ferroviaria, la Palermo-Catania, che, perché come si sa, l'autostrada col ponte di Himera crollato non collega più le due estremità di Sicilia. Interrotta pure la Catania-Gela, insomma, come si dice, allo zoppo si rompe volentieri l'altra gamba. E per dirla con Gino Astorina, dalla città si potrà uscire solo a nuoto. Povera Sicilia, senza ponti, senza autostrade, senza aerei, e però con la bretella. Graziano Del Rio... Quella bretella che aspettiamo. Sì, perché Graziano Del Rio, ricordiamo, ministro delle infrastrutture, ad aprile, quando è crollato il ponte di Himera, cosa ha detto? In 3 mesi faremo una bretella per ricollegare l'autostrada Catania-Palermo. Messa la bretella. No. Aprile. È 1 maggio e sono 2, oggi è giugno, sono 3. Vedremo alla fine di giugno. Vediamo alla fine di giugno, ancora oggi non si è visto né una pala né un piccone, e senza bretelle si sa, si resta tutti con una mano davanti e una di dietro. Vabbè. Si parte la favola, c'era una volta un re. Mario, ancora una bolla? Noi sì. Beh, insomma, l'ha citato prima Sara, questo è l'ultimo del Giorgione, Moroder. E Déjà Vu, poi esce l'album tra qualche giorno, quindi già l'ascoltiamo. A me piace, sentite un po'. Touch of class clamoroso invece, vabbè. Signori, anche i ricchi piangono, pagano, finanziano. John Paulson, che è uno dei più importanti gestori di hedge fund in America, uno che di previsioni ne ha azzeccate tante, ha regalato 400 milioni di dollari all'università di Harvard. È la più grande donazione mai fatta. Sarebbe bello, io dico, naturalmente bisogna anche cambiare le leggi, come ricordava Giovanni prima dietro le quinte con me, e avere industriali e banchieri che in Italia fanno la stessa cosa con la stessa generosità, anche se il mio amico Gordon ha qualcosa da dire su Harvard. I più di questi laureati di Harvard non valgono un cazzo, serve gente povera, furba e affamata. Ma molto chiaro. Gordon è molto preciso in alcune cose, preciso. E non bisogna farlo arrabbiare. E non bisogna sottovalutare. È un po' che non l'ho intervisto adesso. È vero, adesso dovremmo ritornarci. Senti, Marina, intanto, Marina Milone, qual è la storia che racconti oggi dopo il giornale radio? Sì, dopo il giornale radio cerchiamo di capire se dietro il caso Blatter e la corruzione nel mondo del calcio c'è anche una nuova guerra fredda. E quindi ripercorriamo i casi della storia in cui la politica internazionale è entrata nel mondo dello sport. Bene, bene. Dopo il giornale radio, la nuova guerra fredda passa anche attraverso lo sport? Risponderà la nostra storia. Ecco, per chi fosse perso un pezzo di questa puntata può ascoltarlo in replica questa sera alle 23, ma prima della pubblicità Mi sei scoppiato dentro il cuore, cantato da Mina. Non lo so perché all'improvviso sarà perché mi hai guardato